Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, pensate a un oggetto che dice alla macchina come deve essere lavorato, come deve essere prodotto. Sì, avete capito bene, è l'oggetto che dice alla macchina come fare, non la macchina che produce l'oggetto in serie. Non è un paradosso, ma è una delle modalità della fabbrica completamente digitalizzata, o fabbrica 4.0. Ne parliamo oggi con Giuliano Busetto, che è uno dei capi divisione più importanti di Siemens Italia. Guida infatti le divisioni Digital Factories e Process Industry. Siemens è una delle più grandi multinazionali al mondo nel settore della manifattura, del software e dei servizi, è la storica rivale europea di General Electric e fa talmente tante cose che è articolata in 6 o 7 macro divisioni e i loro capi sono un po' come degli amministratori delegati di aziende dentro le aziende. Ma veniamo al tema. Buongiorno ingegner Busetto. Buongiorno. Allora, che cosa significa che l'oggetto dice alla macchina come deve essere lavorato? Beh, si va verso un concetto molto chiaro all'interno di Industry 4.0. Gli oggetti hanno all'interno dei microprocessori, ne conoscono la storia, sanno come l'oggetto è stato pensato, come è stato progettato e quindi è l'oggetto che già oggi, ma sempre di più nel prossimo futuro, dirà alla macchina, che sia una macchina utensile ad esempio, come dovrà essere lavorato. Quindi c'è un dialogo, quello che un po' possiamo anche definire come internet, anche delle cose, in quanto gli oggetti sempre di più parleranno tra di loro, oggetti e unità produttive, quindi può essere macchina, linea e progressivamente fino a una fabbrica integrata digitale. Molto interessante. Ecco, ma vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa significa esattamente Industry 4.0? Lei intende che cosa vuol dire la quarta rivoluzione industriale? La quarta rivoluzione industriale, per chi adesso magari è in macchina e stava sentendo la musica e si collega adesso, che è? Ah beh, certo. Trascuriamo le prime tre o spieghiamo anche che cosa è successo? Le prime tre veloci, dai. Allora, le prime tre velocissime. Beh, innanzitutto la prima riguarda la fine del 1700, XVIII secolo, dove si hanno i primi impianti, l'utilizzo, per esempio, dell'energia idraulica, l'inizio dell'utilizzo del vapore. La seconda rivoluzione è quella che invece vede proprio lo sviluppo, direi, ampio nel mondo, quindi parliamo del XIX secolo, di tutto ciò che riguarda la generazione e distribuzione di energia elettrica, illuminazione, certo, centrali. La terza rivoluzione è quella un po' più vicina a noi, è quella che ha determinato l'utilizzo in larga scala del microprocessore, quindi parliamo dagli anni 70-80. Quella dell'IT e dell'informatica. La quarta rivoluzione industriale? La quarta rivoluzione industriale invece è un concetto che sposeremo nei prossimi anni, io parlo almeno di una decina se non ventina d'anni, e che guiderà il legame tra l'aspetto di informatica, virtualizzazione, progettazione con la produzione reale. Quindi legherà il mondo meccanico, il mondo meccatronico, il mondo dell'automazione, dell'elettronica con la... Perché vuol dire che su ogni prodotto ci sono dei chip, anche su ogni componente, e quindi viene monitorata la vita del prodotto e dei relativi componenti per sempre, viene fatta la manutenzione predittiva e cambia anche il modo di interpretare il business, i modelli dei business dell'azienda produttiva che a un certo punto fornisce la vita del prodotto e tutto quello che gli sta attorno, e dunque i prodotto e il servizio vanno insieme. Sì, ma lo facciamo perché? Perché sono, io direi, tre elementi fondamentali nel successo di un'impresa. Cioè? La velocità di portare sul mercato un prodotto, quindi il cosiddetto, sì, time to market, la flessibilità, perché sempre di più noi andiamo verso, come utenti, verso la richiesta di un prodotto che sia customizzato, parliamo di un'automobile, parliamo di un oggetto anche quotidiano, lo vogliamo come noi desideriamo sia fatto quell'oggetto. E terzo elemento è la sostenibilità, perché di nuovo dobbiamo fare molta attenzione ai risparmi energetici e l'utilizzo giusto delle risorse. Ecco, tutti questi tre elementi sono fondamentali, sono legati uno all'altro, per far sì che per avere produzioni sempre più veloci, flessibili, abbiamo la necessità che quello che andremo a costruire, a lavorare, sia un oggetto intelligente, quindi abbia all'interno un microprocessore, se ne conosca la storia, come è stato progettato, come è stato modificato. Dobbiamo ridurre il lancio di un prodotto sul mercato. Per far questo dobbiamo costantemente monitorare come quel prodotto evolverà nel tempo. Ecco, ma in tutto questo, Siemens, che poi credo che in tedesco si dica Siemens, ecco, in tutto questo che cosa fa? Ma fa molte cose. Innanzitutto Industry 4.0 ha delle tecnologie ben specifiche individuate. Partiamo dai collaborative robot, parliamo della virtualizzazione, simulazione, cyber security, eccetera, eccetera. Noi abbiamo investito negli anni moltissimo nel completamento di un portafoglio che unisce all'automazione, alla meccatronica, alla parte elettrica che ha sempre caratterizzato Siemens, il mondo virtuale. Quindi investito molto nell'acquisizione, nello sviluppo di industrial software. Perché per realizzare un oggetto, una macchina, un aereo, lei ha la necessità, per ridurre i tempi di realizzazione, di avere una progettazione efficace, di una progettazione che consente di simulare come quella linea di produzione dovrà agire per fare quell'oggetto. Ecco, abbiamo investito moltissimo in tecnologie innovative dal punto di vista di CAD/CAM, CAE, progettazione 3D, virtualizzazione, simulazione, PLM, quindi la conoscenza dell'intera vita di un componente, come è progettato, come è fatto, come sarà sviluppato. Ecco, per sapere che cos'è esattamente Siemens, una breve scheda. La tedesca Siemens è la maggior azienda manifatturiera europea non automobilistica, con circa 78 miliardi di euro di fatturato e 360.000 dipendenti in 190 paesi. Ha sede a Monaco di Baviera ed è quotata a Francoforte e New York. È anche una delle più antiche aziende europee, fondata nel 1847 da Werner von Siemens, un imprenditore e un politico di assoluta genialità. A von Siemens si devono la costruzione del primo telegrafo tedesco, la realizzazione della linea telegrafica Francoforte-Berlino, la costruzione della prima linea ferroviaria elettrificata e tantissime altre innovazioni che in quegli anni hanno proiettato la Germania nel mondo moderno. Siemens ha una storica rivalità con l'americana General Electric, che negli Stati Uniti è, esattamente come Siemens in Europa, la più grande azienda manifatturiera non automobilistica. Non è un caso che entrambi i colossi abbiano annunciato nei mesi recenti la loro trasformazione in software house. Nel corso della sua storia, Siemens ha prodotto praticamente tutti gli oggetti meccanici ed elettronici che nelle varie epoche erano all'avanguardia, abbandonandone spesso la fabbricazione quando la produzione non risultava più conveniente. Motori per aerei, elettrodomestici, telefoni, personal computer, hardware per la telefonia mobile e fissa. Oggi Siemens, guidata a livello mondiale da Joe Kaeser, è particolarmente focalizzata su meccanica per l'energia, automazione, healthcare. È articolata in 9 divisioni, ciascuna delle quali produce l'hardware e gli strumenti per i settori di pertinenza. Elettricità e gas, energie rinnovabili, servizi per la generazione di energia, tecnologie per l'edilizia, tecnologie per la mobilità, manifattura digitale, processi industriali, healthcare. Queste divisioni sono praticamente delle aziende dentro l'azienda, tanto che la holding Siemens AG è considerata una conglomerata. In Italia, Siemens è guidata da Federico Golla, fattura 1,7 miliardi e ha 3.400 dipendenti. Rieccoci in linea dopo la scheda, stiamo ancora parlando con Giuliano Busetto di ultimissime frontiere dell'industria, quindi dell'oggetto che dice alla macchina come deve essere lavorato. Lui stava dicendo che Siemens ha investito moltissimo in software che consentono di simulare l'intero processo produttivo, giusto? Esatto, esatto. Quindi partiamo di CAD/CAM, CAE per progettazioni in 3D, fino a PLM integrato, quindi l'intera vita del prodotto, e simulazione anche di linee di produzione di macchine, fino a simulazione dell'intero processo manifatturiero produttivo, in modo tale da analizzare la logistica, da analizzare il funzionamento, anticipare possibili errori. Sono tutti elementi che consentono quindi di ridurre il tempo di produzione di un oggetto, potendo simulare in anticipo come la macchina, l'impianto, la linea dovrà funzionare. Ecco, perché una delle caratteristiche dell'Industry 4.0 è che c'è un time to market molto ridotto e quasi non c'è il magazzino. Noi abbiamo avuto ospite nelle precedenti puntate, l'avremo ancora, Gianluigi Viscardi di Fabbrica Intelligente, che definiva l'Industry 4.0 come il fatto di avere in produzione un pezzo in meno di quelli che servono sul mercato, giusto? Ma assolutamente sì, perché deve essere la filiera integrata. Cioè non è solo la fabbrica di produzione, per esempio, di un autoveicolo, di un'automobile, ma è anche l'insieme dei fornitori, che quindi sono gestiti, se vuole, da informazioni date dai nostri software, in modo tale da sapere perfettamente quali sono i componenti che servono per assemblare quell'automobile. Se lei pensa che un'automobile oggi viene, anche fabbriche italiane molto note, prodotte in più di 1000 veicoli al giorno, lei conti vuol dire che ogni veicolo esce meno di un minuto in produzione. Questo vuol dire che, poiché ogni veicolo è diverso uno dall'altro, dal punto di vista degli interni, motore, dal punto di vista di componenti stessi, è necessario che la componentistica che le serve per assemblare poi quella macchina in tempi così veloci sia disponibile, sia programmata in modo tale da non avere poi grossi magazzini atti a contenere questi componenti. Quindi è necessario che ci sia una perfetta integrazione tra quindi progettazione, costruzione e poi filiera intera di chi deve dare la componentistica atta a terminare quel componente. Ecco, ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con l'ingegner Giuliano Busetto, che è uno dei capi divisione più importanti di Siemens in Italia. Infatti si occupa delle divisioni Digital Factories e Process Industry, cioè delle divisioni industriali, e con lui stiamo parlando delle frontiere più avanzate della fabbrica, dove la fabbrica ormai diventa una sorta di laboratorio informatico, tant'è che lui ci parlava del fatto che Siemens ha investito moltissimo nei software di simulazione. In progettazione e simulazione. Ecco, ma voi state praticamente come General Electric, la notizia è che Siemens diventa una società di software? Ma Siemens è già da tempo una società di software, abbiamo decine di migliaia di softwareisti nel mondo. Non solo riguardanti l'aspetto di progettazione e di sviluppo di queste piattaforme, ma ovviamente software si intende anche quando lei deve personalizzare, configurare i sistemi di controllo di un impianto. Quindi sempre di più sentirà parlare Siemens in termini di software industriale. Non siamo una software house, ma siamo coloro che danno la possibilità ai nostri clienti di portare avanti i concetti di riduzione di time to market, flessibilità delle linee, quindi il percorso digital twin tra una progettazione. Ecco, digital twin, sì. Detto così sembra un termine tecnico, invece è una cosa molto affascinante, perché vuol dire che invece di avere il pezzo meccanico o la macchina, io ho un twin, vuol dire gemello, un gemello digitale che ha le stesse identiche caratteristiche che io vedo in un visore. Assolutamente sì, io lo vedo come si muove ovviamente in una virtualizzazione a tre dimensioni, quindi vedo come può essere lavorato, vedo come la macchina stessa si muove, quindi posso anticipare difetti di produzione, di programmazione, di progettazione, posso realizzare anche dei commissioning virtuali, quindi riesco a capire in anticipo eventuali difetti di, non so, collisione tra due componenti all'interno della macchina. Quindi ho una progettazione, non è più in sequenza. Questo è uno dei vantaggi della riduzione del time to market, riuscire ad avere un gemello virtuale che mi consente, mentre procedo nella programmazione dell'unità produttiva reale, meccanica, ho la possibilità quindi di anticiparne i comportamenti. Questo direi è straordinario. Ecco, ma voi avete fatto un progetto simile con Maserati. Sì, direi che l'industria automobilistica, per esempio, si presta moltissimo. Abbiamo fatto con Maserati, con Fiat. Ecco, ma ci vuole raccontare che cosa avete fatto con Maserati? Ma è proprio questo. Noi con Maserati abbiamo realizzato non solo l'automazione, abbiamo dato tutte le piattaforme software di progettazione di cui abbiamo appena parlato, in più abbiamo dato anche il sistema MES, perché come puoi immaginare ogni macchina, in questo caso Maserati, è configurata secondo come un pezzo unico, perché poi ormai siamo nell'epoca della personalizzazione di massa. Lo sceicco arabo che si compra una Maserati dice: io la voglio fucsia, che vada a 400 all'ora e che faccia il bungee jumping, e quindi bisogna simularla. Ecco, ma alcuni dati sono fondamentali, io penso. Innanzitutto, quando parlavo di flessibilità, la Ghibli ad esempio è fatta in 27 versioni, 13 colori, più di 200 configurazioni, vuol dire che lei ha decine di migliaia, se ben ricordo 70.000 configurazioni possibili. Cioè 70.000 configurazioni possibili della Maserati Ghibli. Esatto. Il che vuol dire che prima di produrla, siccome costa un sacco di soldi, ci vuole un software che faccia il gemello digitale della Maserati Ghibli, e quel software lo fate voi. Esatto, non solo, ma lei ha bisogno di dare all'operatore, che oramai è un tecnico specializzato, è come se fosse una ricetta, come quella macchina in quella postazione di lavoro deve essere composta. Quali sono i componenti che vanno? Proprio perché le 70.000 configurazioni determinano la necessità di una forte personalizzazione, una forte customizzazione. Questo è un elemento che riguarda la flessibilità. Secondo, la riduzione di time to market, perché effettivamente, come ci hanno spiegato, normalmente una macchina... Se io voglio una Maserati Ghibli strafiga da €1.000.000, non voglio di aspettare 2 anni. Beh, sì, adesso non sono io a dire quanto costa una Maserati Ghibli. No, ma io invento €1.000.000. Però il fatto, ad esempio, che una macchina del genere veniva normalmente progettata in 30 mesi, invece siamo riusciti, grazie al nostro concetto di Digital Twin, siamo riusciti a ridurre quasi del 50% il tempo di produzione. E questo come la mette lei? Sembra che la Siemens faccia solo software. La Siemens fa anche software, però io mi immagino la Siemens come una grande azienda che fa i processi di automazione, fa anche i robot e poi si collega a anche l'attività di produzione turbine e quant'altro. Beh, innanzitutto voglio dire, poi la macchina deve essere effettivamente costruita, quindi ecco, nella costruzione... di assemblaggio, di verniciatura, sono comandate da un'automazione molto spinta che fate parte anche voi. Direi il cuore della nostra realizzazione. Il cuore è rappresentato dall'automazione. Oramai diamo per scontato l'automazione, come lei sa, è un elemento fondamentale di Industry 4.0. C'è sempre più richiesta di automazione. Se lei ha anche quanto caratterizza Siemens rispetto ai competitor, e che noi leghiamo in un modo evidente, diretto, la parte software industriale con l'automazione, perché dobbiamo dare questo vantaggio competitivo, non solo limitandoci a fornire un pezzo di quanto serve per la produzione, ad esempio della Ghibli, ma dare anche il concetto integrato di automazione, di gestione a livello di MES, quindi quel software che in parole povere gestisce la ricetta di composizione di quella macchina. Volevo poi tornare sul concetto di Industry 4.0, perché quello che mi affascina è che la gente pensa che sia un concetto americano, perché gli americani hanno inventato l'internet delle cose, in qualche modo Industry 4.0 prende spunto dall'internet delle cose, però Industry 4.0 è un concetto tedesco. È un concetto che è stato inventato dalla politica industriale tedesca nell'ambito di un programma quinquennale, è stato voluto dai tedeschi e permette ai tedeschi di stare all'avanguardia. Queste cose adesso ve le faccio sentire in una brevissima scheda. La rivoluzione che sta cambiando profondamente la manifattura mondiale si chiama Industry 4.0, che in tedesco è Industrie 4.0. È la totale digitalizzazione della produzione. Su ogni componente manifatturiero ci sarà, e in alcuni casi c'è già, un sensore che permetterà al componente stesso di dialogare con gli altri componenti e con la fabbrica, prima, durante e dopo la produzione. Tutto questo genera una massa enorme di informazioni, i big data, che software appositi filtrano e valutano, permettendo di prendere decisioni in termini di gestione, manutenzione e utilizzo del prodotto. Per gestire questi dati, ogni azienda manifatturiera dovrà trasformarsi a suo modo in una software house. Saranno ridotte al minimo le scorte, i magazzini. I componenti arriveranno just in time solo quando saranno necessari per assemblare il prodotto e potranno essere assemblati fra loro in infiniti modi diversi e personalizzati. Una rivoluzione che cambierà profondamente il modo di produrre in tutto il mondo, i modelli di business delle aziende, ma anche la società e la cultura mondiale. Pochi sanno che la rivoluzione dell'Industrie 4.0 nasce da un atto di politica industriale del governo tedesco. Da un atto politico, insomma. È l'High-Tech Strategy for Germany, un processo di definizione delle linee generali manifatturiere del paese, processo iniziato nel 2006 e periodicamente aggiornato. Il comitato di uomini d'azienda, politici e studiosi che formula l'High-Tech Strategy for Germany nel 2011 ha individuato il fenomeno, lo ha classificato battezzandolo Industrie 4.0 e si è posto il problema di come affrontarlo e trasformarlo in un vantaggio competitivo per le sue aziende. La risposta è una strategia molto precisa, costruita con il coinvolgimento di studiosi universitari e manager. Il gruppo di lavoro ha presentato una relazione al governo tedesco, che poi è diventata la base di un programma di politica industriale. In pratica, si dimostra che per cavalcare con successo l'Industrie 4.0, le aziende tedesche devono diventare un unico gigantesco sistema integrato e si prospettano le strategie necessarie per farlo. Rieccoci in linea con l'ingegner Busetto di Siemens. Allora, Industrie 4.0 è un concetto tedesco e Siemens è tedesca. Sì. E dunque? E dunque io sono responsabile per l'attività industriale in Italia e sono fortemente italiano, quindi sono orgoglioso di portare una tecnologia tedesca per il successo delle imprese italiane. Quindi industria manifatturiera, non solo la grande azienda che produce automobili di cui abbiamo parlato prima, ma tutti coloro che lavorano nella filiera, quindi costruttori e macchine utensili. Però è un concetto tedesco perché i tedeschi sono molto organizzati, infatti una delle ragioni del loro successo industriale ed economico è una politica industriale che non è dirigismo, ma estrema organizzazione e messa in connessione di tutti gli attori. Tutto questo da noi in Italia non c'è, tutto in più ci sono delle iniziative frutto del volontarismo spontaneo, quale è il cluster Fabbrica Intelligente di cui voi fate parte. E allora come facciamo? Beh, fa parte anche del nostro compito, del mio compito. Io ho anche il ruolo di presidente dell'Associazione Nazionale di Automazione. Quindi, che è una cosa di Confindustria? Sì. Quindi comunque noi dobbiamo favorire la divulgazione di queste tematiche non così note all'interno dell'industria manifatturiera italiana. Dobbiamo spiegare i vantaggi che per un imprenditore, per una media e anche piccola impresa italiana questo può avere nel futuro. Dobbiamo spiegare loro che è necessario che loro, facendo parte di una filiera ed esportando molto, parlo dei costruttori di macchine, siano ben consci dei vantaggi che investimenti nell'ambito dell'IT, inteso non come ERP ma inteso come progettazione, come virtualizzazione, come digital twin, ecco, può portare a loro per essere competitivi nei mercati internazionali. Dobbiamo favorire una spinta nei confronti ovviamente delle istituzioni, del governo, affinché si evidenzi l'importanza straordinaria dell'industria manifatturiera italiana. Ma soprattutto il governo dovrebbe coordinare tutte queste cose, perché si tratta alla fine di creare un flusso ininterrotto di dati in cui tutti comunicano con tutti, e la creazione di questo flusso, il coordinamento relativo e le azioni di ricerca e sviluppo necessarie, alla fine che cosa sono? Sono politica. Non metto in dubbio quanto lei dice. Io credo che l'imprenditore debba anche pensare di per sé come vuole la propria azienda. Cioè l'Italia ha alcuni elementi dove bisogna lavorare, per esempio l'infrastruttura, la necessità di una banda larga, perché poi noi possiamo parlare di big data, smart data. Ma queste sono precondizioni. Ecco, così come la precondizione è prendersi il software della Siemens o l'ERP. Però deve restare fermo un fatto, che l'azienda deve sapere dove andare, avere un modello originale di business per la conquista del mercato, perché certe volte secondo me si tende a pensare che basti prendersi il software però se tu poi non sei un'azienda significante, come dice il mio amico professor Carlo Bagnoli, non vai da nessuna parte. Intanto la ringrazio, ingegner Busetto. Io ringrazio lei e salutiamo gli ascoltatori. Fabbrica 2.4 in onda domani ore 13:15.